Se ne piace farci e la sua vita, vita, pastiglie, roba o coca, ha lo stesso Persenia. Quando ha bisogno Persenia, non c'è realtà, non c'è realtà, per strada o dentro un bar si fa. E il modo in cui canta Boom Girl Elisabetta è particolare, ricorda un po' tra il rap e la recitazione. E dove è nato questo, diciamo, nuovo modo di cantare anche? Ma sì, diciamo che c'è il modo di cantare, cioè, diciamo che c'è un legame col rap, perché spunta spesso sulla mancanza, non la mancanza, però comunque sulla limitazione, no? Sul appunto sul giro di voce. Sì. E quindi può ricordare in qualche modo, qualche volta, una rappata, qualche volta può ricordare qualcosa come può essere una preghiera, non so, un mantra, diciamo. Esatto. E diciamo che è nato soprattutto legato al fatto di quando abbiamo provato a mettere in piedi le cose, comunque Elisabetta, che ne prova, suona il basso, non aveva mai cantato prima. Quindi ha approcciato, diciamo, il cantare in una maniera del tutto diversa dal solito, vuol dire, cioè non come un cantante che sa che si fa così, che si usa quello, in un modo completamente diverso, quindi sì. In una maniera incosciente da un lato, però è stata quella che in qualche modo ha aperto una via vera e propria, ed è stato il motivo per cui abbiamo continuato, perché se fossero venuti a cose alla Project Più, l'avremmo fatto Project Più, no? Quindi sì. Diciamo che la non esperienza è stata la chiave per che ha aperto la porta del tambur in qualche modo, no? Tossico pensiero, tossico telefono, tossico mio amore, tossico mio bello, tossica la gente, tossica la carne, tossico mio corpo, si è abituato. Ma come star senza se sei abituato? Io, a proposito di questo tema della paura e dell'amore, mi vorrei ricollegare un attimo a una canzone che abbiamo scelto noi come per chiudere la settimana scorsa, il disco della settimana, che però non è contenuta in Paura e l'amore, ma è un pezzo che ci ha colpito molto, La fine della Chemio, che è stato rifatto con diversi artisti, se non sbaglio, ed è uscito di nuovo lo scorso anno, l'avete rifatto. E puoi sì, parlarci di questo progetto, perché per me è stato davvero molto bello ed è un pezzo che sto ascoltando in loop. Quel pezzo lì era... Allora, l'Elisabetta, che diciamo la cofondatrice del Sittamburo assieme a me, mi accompagna ancora dai tempi dei Progettiu, come tutti sanno, e si è ammalata di tumore, ed è stato il mio modo un po', scrivere quella canzone è stato il mio modo un po' per aiutarla, un po' per aiutare anche me, perché la nostra vicinanza è talmente, lo dico è perché è tuttora così, talmente stretta e consolidata, che era come stesse succedendo a me. Non avevo neanche il coraggio di farglielo sentire inizialmente, poi comunque sono riuscito, gliel'ho dato. Lei stava andando a fare la terapia alla chemio, appunto, l'ha ascoltato in macchina, è scoppiata a piangere, ma dalla felicità. E adesso, per farla breve, mi ha detto: guarda, io voglio che questo pezzo lo ascoltino più persone possibili, perché quello che mi ha dato a me, cioè, è indescrivibile, molto più della chemio, molto più della psicologa che frequento, molto più degli antidepressivi che mi tocca prendere per affrontare sta roba. E quindi in qualche modo abbiamo deciso di rifare quella canzone, che comunque avevamo messo dentro nel nostro disco scorso, no? Un giorno nuovo, con più artisti possibili, anche scelti diciamo in un ambiente che non era proprio il nostro, quindi quello meno alternativo, no? Quindi abbiamo detto: boh, chiediamolo anche a quelli grossi che fanno musica più popolare, diciamo. Così abbiamo fatto, abbiamo coinvolto tanti artisti, per citarne alcuni: Giovanotti, Elisa, Samuel dei Subsonica, Emanuele Agnelli, insomma, e così via, in modo da far arrivare, lo scopo dell'Elisabetta iniziale era questo, quel messaggio a più persone possibili. E oltretutto abbiamo devoluto, sempre per decisione dell'Elisabetta, e l'intero incasso, cioè tutti i proventi delle vendite, a delle associazioni che ha scelto sempre l'Elisabetta. E così abbiamo fatto, e devo dire, è stata una cosa molto faticosa, perché ti dico, ci sono voluti 2 anni per farla, per quello che è uscito praticamente un anno dopo il disco, perché ti dico, riuscire a mettere mettere insieme tutte queste persone, a coordinare tutto il progetto, sì, insomma, è stata veramente una fatica che non so se riuscirei a rifare, te lo dico, perché è stata veramente una fatica incredibile. Penso che sia anche da ascoltatrice, ti posso dire che penso che riuscire a rifare una canzone del genere, io mi immagino che sia difficilissimo, perché arriva davvero la forza di tutto il progetto, e è una canzone che davvero trasmette, l'ho pensata collegata alla paura e all'amore, perché si capisce la paura che ci può essere in questa situazione e l'amore che uno può dare a un'altra persona, giusto? Assolutamente, come sostegno. Sì, sì, è per quello che ti dicevo, no? Che questo disco è un po' la continuazione di quello che arrivava già dal disco prima, perché in effetti hai fatto riferimento tu, la fine della Chemio è proprio l'emblema di questa cosa, diciamo. È solo che, diciamo, in Senza Vergogna si parlava tanto di disagio, diciamo, di situazioni di disagio e come racconto. In Un Giorno Nuovo si parlava tanto della speranza e si affrontava quel disagio però con la positività, mentre in questo disco qui, che è appunto secondo me come una sorta di trittico con gli altri due, e si tocca sempre la questione del disagio, però ci si dà questa ipotetica e secondo me anche poco ipotetica, ma reale soluzione, che è l'amore. E però arriva tutto questo, in effetti, come hai fatto notare tu, da prima, insomma, perché è proprio un lavoro di tre dischi che ruotano attorno a questa grande massa di cose che abbiamo tutti da quando nasciamo, che è la paura e il suo contrario, che è l'amore. Festeggeremo la fine della Chemio fianco a fianco su quel palco. E sarai bene, sai, e finirà anche il buio, tante cose cambieranno. I tuoi capelli lunghi, quelli cresceranno di un colore che è un incanto. E se non cresceranno, allora sai, ti dico, allora starai meglio senza. E quando parlerai alla gente girerà la testa, alcuni sverranno. E si potrà capire quello che è importante e quel che vale veramente. E insieme rideremo e non ricorderemo niente. Ricostruiranno tutto, ormai si fa anche quello, dopo un sogno che si è infranto. E si potrà capire, e si potrà capire. Finché il sole si alza, si potrà capire perché. Finché il sole si alza, non si muore, non si muore. Finché il sole si alza, si potrà capire perché. Finché il sole si alza, non si muore, non si muore. Festeggeremo la fine della Chemio fianco a fianco su quel palco. E stare bene, sai, e finirà anche il buio, tante cose cambieranno. E rimarranno i segni, ma sembrerai più bella il tuo sorriso vinto. E le paure, quelle qualche volta, quelle ancora torneranno. Non si muore, non si muore.